solo ali di diamanti blu, più giustizia e verità, certezze e libertà. Siamo soli anche se non lo dici, solo amare le tue cicatrici, anche se splendidi. Lacrime e miele al sole, il racconto non basta a parlare di me, a ciò che non voglio niente di più, solo ali di diamanti blu, giustizia e verità, certezze e libertà. Siamo soli anche se non lo dici, solo amare le tue cicatrici, anche se splendidi di più, di più. Abuso della mia voce, sì, per farmi capire, provo di tutto anche a gesticolare. Inutile sforzarsi se la comunicazione è assente costantemente. Dite il problema, è la mia generazione. Dico il problema, è la generalizzazione. Sforziamoci di capire, gridiamo anche senza voce. Apriamo gli occhi, voglio davanti. Solo ali di diamanti blu,